Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, ben trovati. Salva Danaio, si sto già facendo un po' di rumore con il microfono. Il mio ospite dovrebbe avere il numero 4, se non sbaglio. E allora oggi torniamo sui temi della previdenza complementare, perché è finito il primo trimestre dell'anno. Tutte le società stanno rassegnando le proprie trimestrali e anche l'industria dei fondi pensione traccia il suo bilancio trimestrale. Pare che da gennaio a marzo, nonostante l'orso continui ad imperversare sui mercati, le casse di categoria abbiano tenuto, registrando una perdita, sì, ma contenuta, diciamo, meno 0,8%. La premessa è pedante ma necessaria: non si può valutare in un trimestre l'andamento di un fondo pensione che è chiamato a produrre altri risultati. Marco Lo Conti, riconosci questo attacco di questo pezzo? Sì, mi suona, diciamo, che quello che ho scritto io è quello che ha scritto Marco Lo Conti sabato su Plus 24, commentando appunto i risultati di questo primo trimestre dell'anno dei fondi pensione. Peraltro, volevo subito rispondere ad un ascoltatore che ci dice: parlate spesso dei fondi di categoria e mai dei fondi aperti. Stamattina siamo documentatissimi anche sui risultati di questi, più o meno. È ovviamente un panorama molto più vasto, pertanto è un po' più difficile star dietro ai rendimenti di questo ambito, ma cercheremo di accontentarvi anche su questo. L'altro nostro ospite di Salva Danaio, lo ringrazio e lo saluto per questa partecipazione, Maurizio Agazzi, direttore del fondo pensione Cometa, il più grande fondo pensione italiano, quello dei metalmeccanici, ma è anche coordinatore del comitato tecnico di Asso Fondi Pensione, che è l'associazione dei fondi pensione negoziali. Ragazzi, buongiorno. Buongiorno e buongiorno ai suoi ascoltatori. Benvenuto a Salva Danaio. 800 24 00 24 è il numero verde per i nostri ascoltatori. Questa mattina facciamo un punto sull'industria della previdenza complementare. Cosa è successo nel 2008? Lo abbiamo raccontato più spesso. Cosa sta succedendo in questi primi mesi dell'anno, in cui il mercato è ancora piuttosto turbolento, le incertezze non mancano, molte persone sono in cassa integrazione, molti lavoratori, qualcuno sta perdendo il posto di lavoro, per cui ha problematiche, diciamo, come dire, ha degli ostacoli già emotivi rispetto alla previdenza complementare. Se ne sono aggiunti negli ultimi mesi anche altri che stanno continuando, come dire, a produrre delle mancate scelte da parte dei lavoratori. Anche di questo parleremo quest'oggi. 349-238-6666 invece il numero per i vostri messaggi. Andiamo a vedere un attimo la borsa, che sta già presentando una sorpresa. Abbiamo concluso il giornale radio anticipandovi quello che sapevamo di Fiat. Non erano ancora stati divulgati i dati del trimestre, c'erano solamente quelli della controllata americana Case New Holland, che non erano apparsi particolarmente soddisfacenti al mercato perché il titolo stava perdendo quasi il 3%. Abbiamo invece i dati del trimestre del gruppo: c'è una perdita di 411 milioni di euro, l'utile della gestione ordinaria è di almeno 1 miliardo previsto per il 2009, e poi abbiamo, sempre per quello che riguarda la gestione ordinaria, nel trimestre c'è una perdita per il gruppo di 48 milioni di euro. Il tema è che sembrano dati migliori delle attese, perché il titolo sta schizzando più 3,21% in questo momento a 7,73 euro. Se avremo ulteriori dettagli ve li daremo senz'altro. Intanto la giornata è positiva complessivamente per Piazza Affari, che sta guadagnando lo 0,9%, anzi adesso un punto, forse anche spinta da Fiat, ma spinta anche da Prismian e Unicredit, che guadagnano il 4%. Lottomatica più 3,76%, Pirelli, UbiBanca più 3%, mentre le altre piazze europee sono molto più deboli: Londra più 0,5%, Francoforte addirittura negativa dello 0,12%, Parigi più 0,29%. Oggi abbiamo alcuni dati economici dagli Stati Uniti, come sempre abbiamo i sussidi settimanali alla disoccupazione, abbiamo altre statistiche sull'andamento del mercato immobiliare. Non mancheremo di osservare attentamente questi dati. E l'euro sul dollaro stamattina ha recuperato la soglia di 1,30 e adesso si spinge a 1,30 e 64. Lasciamo il mercato, però in realtà poi fra un po' lo ritoccheremo di nuovo, perché ovviamente le tendenze del mercato hanno direttamente coinvolto anche le tendenze dell'industria dei fondi pensione. Sentiamo com'è andata in questi primi tre mesi del 2009. Se è vero che i rendimenti dei fondi pensione si valutano sul lungo termine, dopo lo scivolone dello scorso anno causato dalla recente crisi finanziaria, è inevitabile domandarsi come ha iniziato l'anno il comparto della previdenza complementare. I primi numeri sull'andamento dei fondi negoziali o di categoria parlano di un calo medio dello 0,77% e di un meno 1,39% per i fondi aperti. Risultati in assoluto non soddisfacenti ma incoraggianti, dal momento che registrano un miglioramento rispetto al meno 6,3 dello scorso anno per i negoziali e al meno 14,1% degli aperti nel 2008. Nel dettaglio, per quanto riguarda i fondi aperti, complice la loro maggiore esposizione all'azionario, il primo trimestre dell'anno ha fatto registrare rendimenti leggermente più bassi. Meno 5,53% gli azionari, mentre obbligazionari e monetari hanno guadagnato rispettivamente un 1,16 e uno 0,87%. Bisogna poi tener presente che i fondi pensione hanno sfruttato solo limitatamente il recente rimbalzo messo a segno dai mercati finanziari dopo i minimi registrati nei primi giorni di marzo. Per chi invece avesse deciso di lasciare il trattamento di fine rapporto in azienda, anziché trasferirlo nei fondi, le cose sarebbero andate meglio, almeno fino ad oggi. Nel 2007 e nel 2008 la rivalutazione del TFR, che per legge è pari all'1,5% più il 75% del tasso di inflazione, al netto dell'imposta sostitutiva sarebbe stata rispettivamente del 3,1 e del 2,7%. 800 24 00 24 è il numero verde per i nostri ascoltatori, 349 238 6666. Ma mi senti adesso, sì, Marco? Sento, con la sento. Cuffia siamo a posto, sì, questa sì, mattina sì. Ci stiamo intrecciando con cuffie e microfoni. Allora, di nuovo buongiorno, il tema è appunto la previdenza complementare, un tema che nel 2007 non abbiamo fatto altro che affrontare, quando c'era il famoso semestre del silenzio assenso, quando i lavoratori italiani erano chiamati alla scelta se mantenere il TFR in azienda o destinare il trattamento di fine rapporto maturando in un fondo di previdenza complementare, in un fondo pensione di categoria, piuttosto che in un fondo aperto, piuttosto che in una polizza assicurativa. Nel 2008 invece abbiamo dovuto dirottare la nostra attenzione altrove, anche quelle persone che non avevano fatto la scelta e che l'avevano magari rinviata proprio nel 2008 l'hanno continuata a rinviare, probabilmente perché i mercati sono andati come sono andati, per cui anche questo ha generato una certa paura, un certo timore di fare anche una scelta avventata, una scelta sbagliata. Oggi ci ritroviamo invece a parlare di un inizio d'anno che vede ancora qualche incertezza per i rendimenti dei fondi di previdenza complementare, ma tutto sommato, Marco, Conte, c'è una tenuta, non ci possiamo proprio lamentare se consideriamo che il mercato ancora continua a scendere. Sì, ribadiamo, guardiamo con un po' di distacco un risultato trimestrale, perché che sia più o meno 0,8%, insomma, non ci cambia l'esistenza e non deve cambiarci l'esistenza in misura eccessiva. Un trimestre non è, come dicevamo all'inizio della puntata, una dimensione sufficiente per trarre una valutazione complessiva sull'efficienza di un fondo pensione. Ci vuole molto più tempo, perché un fondo pensione lo si tiene per una ventina d'anni almeno, per cui un trimestre non dice un granché, però una piccola indicazione appunto di tenuta, di piccolo rimbalzo sotto certi aspetti, complice anche il fatto che, e questo forse è il dato più incoraggiante, che soltanto una piccola parte del trimestre, poche settimane, hanno beneficiato del rimbalzo dei mercati dal 9 marzo in avanti. Da allora le borse hanno guadagnato anche oltre il 25%. Quando si dice è ora il caso di investire, beh, c'è chi dice è già troppo tardi, perché già un bel rally si è verificato, perché in queste fasi, dicono gli esperti, l'ultimo precipizio è molto vertiginoso e il primo rimbalzo è molto forte, parlando di mercati azionari, per cui questo, quando ci occupiamo di fondi pensione, ha un valore abbastanza relativo. Quello che abbiamo verificato è che le linee azionarie e le linee bilanciate, così come i comparti garantiti, più o meno si muovono in una direzione abbastanza simile. Tra l'effetto i fondi. Gregge di cui parli. L'effetto tu, gregge, plus, sì. C'è poca variazione, non sono fondi quelli di categorie in competizione tra di loro, più di tanto, soltanto quelli regionali, quelli territoriali possono essere competitivi con i fondi categoria, per cui non c'è una vera e propria competizione. I fondi aperti, che invece sono più in competizione tra di loro, offrono un ventaglio un po' più ampio, sono mediamente più esposti all'azionario, per cui più rischiosi, per cui hanno perso qualcosina di più, hanno una varianza maggiore, Tuttavia, quello che è da sottolineare è che le nuove adesioni sono state estremamente limitate. Infatti, meno questo di tra l'altro è il punto che volevo proprio affrontare con Maurizio Agazzi, a prescindere, ma non più di tanto, poi se vuole può intervenire anche su questo, dai rendimenti. L'altra questione rilevante di questi primi tre mesi dell'anno è che non crescono di molto gli iscritti. Adesso ovviamente mi sono persa anche la percentuale. In questo momento praticamente gli iscritti alle forme di previdenza complementare nel nostro paese sono 4.889.000, però ecco, il trend della prima parte dell'anno è piuttosto a rilento. Agazzi, è giustificata questa tendenza, oppure insomma il bacino è talmente ampio che forse anche nonostante la crisi qualcosa di più in questa prima parte dell'anno si poteva vedere? Ma se confrontiamo i dati con i dati di prima del semestre del silenzio assenso, probabilmente siamo in linea, nel senso che nonostante la crisi c'è un turnover abbastanza elevato, anche perché le adesioni ai fondi pensione, soprattutto negoziali, non sono sostanzialmente da parte dei giovani, ma di persone che hanno anche una certa anzianità contributiva, e quindi c'è anche una forte uscita. Nel senso, se cito il dato di Cometa nel 2008, noi abbiamo chiuso praticamente alla pari, ma con nuovi iscritti pari a oltre 20.000 persone, quindi diciamo che serve un nuovo impulso, serve un ragionamento, serve mente serena e serve una nuova campagna che spieghi esattamente, come state facendo voi, cos'è la previdenza complementare. E infatti il tema delle campagne informative, almeno dal punto di vista istituzionale, è un tema che hanno ben presente in molti. Forse questo ancora non viene ritenuto il momento adatto per ritornare su questo argomento. Non si capisce quale sia la ragione per cui comunque, poi a prescindere dal fatto che ci sono anche degli ascoltatori che continuano a dirci: ma perché volete spingere per forza l'adesione verso la forma di previdenza complementare? Noi non vogliamo spingere niente. C'è una legge che ha radicalmente modificato il quadro di riferimento, per cui cerchiamo quantomeno di documentare sul fatto che c'è questa grossa partita. Beh, nel nostro sì, paese. Ecco. Quello che vedremo l'anno prossimo, di oggi la notizia di cui parla il Sole 24 Ore, anticipata ieri dal ministro del welfare Maurizio Sacconi, secondo cui tutti gli aderenti a una forma di previdenza, obbligatoria di primo pilastro, riceveranno l'anno prossimo una comunicazione scritta con la propria posizione. Ecco, bisognerà vedere se la comunicazione sarà lo stato dell'arte o sarà, e sarebbe auspicabile, anche, come dire, proiettiva, anticipatrice, se potrà dare una stima su quello che potrà essere la pensione obbligatoria dei singoli lavoratori. Perché si potrà capire, con gli elementi attuali, se si andrà in pensione con l'80% dell'ultimo stipendio, col 70%, col 60% o col 50%. Quindi quantificare il proprio differenti. Futuro previdenziale. In Vedersi modo. Dimezzare le proprie entrate al momento di andare in pensione difficilmente può essere una cosa che può essere digerita, accolta così. Ecco, insomma, sì, per questo è utile la previdenza complementare, cioè che va a completamento, a complemento di quello che è un reddito di primo pilastro. Il problema è che queste brutte notizie, il mondo politico di tutti i colori fa fatica a comunicare, perché non raccoglie voti chi dice: attenzione, vi daremo, lo Stato vi darà soltanto molto meno di quello che percepiscono le persone che vanno in pensione oggi. E dunque dobbiamo metterci un po' avanti, dobbiamo anticipare quelle che possono essere le cattive notizie che arriveranno in futuro. Certo. Possiamo tornare un attimo sul tema dei rendimenti, perché sì, ecco, era rimasto qualcosa indietro. C'era due elementi, sì. Il fatto che mediamente i fondi pensione, e questa è una valutazione più qualitativa che quantitativa, mediamente i fondi pensione fanno meglio dei loro benchmark di riferimento, sì. Meno 0,77%, meno 1,22% i negoziali. Questo ci dice che generalmente la gestione è poco costosa e complessivamente efficiente. Certo, non è molto attiva, però tre comparti su quattro battono il proprio benchmark, e questo è un risultato positivo, perché tra i fondi comuni la percentuale è molto più bassa, non supera il 16%. Certo, dopo, siccome poi i nostri ascoltatori sono molto curiosi anche su chi ha fatto meglio, chi ha fatto peggio, poi daremo anche qualche indicazione un po' più... Dove trovare tutti qualche, i dati. Qualche nome, esatto, faremo. Per il resto, sì, la prima parte, avevi detto due cose sui rendimenti. Sì, l'altra cosa, che appunto una percentuale non irrilevante, comunque si è mantenuta sopra la parità, rispetto sopra lo zero, per cui molte linee, soprattutto obbligazionarie e garantite, sono riuscite a guadagnare non tantissimo, però hanno protetto il valore del, ecco, del patrimonio, e molti hanno battuto anche il TFR. Certo, tra l'altro proprio a proposito, Marco, a proposito di protezione, da quello che ho letto in questi giorni, molti fondi di categoria stanno anche modificando, come dire, il loro profilo, nel senso che stanno addirittura pensando di, come dire, abbassare il proprio profilo di rischio, come per esempio accadrà, credo, a Gazzi, a due comparti più aggressivi del fondo Cometa. Sì, diciamo che questa, questa crisi offre anche l'opportunità di riflettere su qual è l'obiettivo della previdenza complementare in senso compiuto, e quindi di progettare quello che deve essere la copertura da erogare attraverso il secondo pilastro. È chiaro che difficilmente in una situazione di crisi si prendono misure che, non si, che vadano oltre il contingente e che vadano oltre la mera protezione, che sarebbe altrettanto sbagliato, perché poi ci troviamo anticiclicamente a essere protetti quando poi il mercato riparte. Il problema è che stiamo riflettendo accuratamente su come ridurre eventuali rischi inutili e a fronte appunto di questa crisi riprogettare quello che è l'obiettivo dei comparti più aggressivi. In questo senso un'operazione che, su cui stiamo riflettendo per esempio è il rapporto tra l'investimento in euro e l'investimento in valuta non euro. Riteniamo che sia opportuno privilegiare in questo momento una copertura del rischio di cambio, anche perché le pensioni verranno pagate nella valuta euro. Naturalmente la riflessione è aperta si stanno evidenziando sia da noi che in altri fondi negoziali altre tecniche di investimento, di attenzione all'investimento, in modo da offrire effettivamente un obiettivo previdenziale attraverso la previdenza complementare. Per esempio ho letto anche che Fonchim, il fondo di categoria del settore chimico, sta pensando di far scomparire il suo comparto monetario, poi cercheremo di capire anche se questo è più o meno giusto. Agazzi, volevo chiedere a lei sempre, perché c'è una domanda di un ascoltatore che poi è direttamente correlata a questo aspetto: come sta vivendo il fondo Cometa l'aspetto relativo alla perdita di molti posti di lavoro in questo momento per molti lavoratori del settore, appunto il problema dei metalmeccanici che sono anche in cassa integrazione, adesso non tutti perdono il posto di lavoro, molti è successo anche questo, ma per esempio molti sono in cassa integrazione in questo momento e non pensano di certo alla previdenza complementare. Ma diciamo che questa crisi è una crisi in parte strana, nel senso che parecchi lavoratori per fortuna sono coperti al momento da ammortizzatori sociali, c'è un massiccio utilizzo della cassa integrazione ordinaria, quindi non c'è una grossa perdita di posti di lavoro. Sicuramente l'attenzione è rivolta al posto di lavoro, alle problematiche inerenti appunto a questo. Per quanto riguarda la cassa integrazione c'è una delibera della COI che consente appunto di applicare, di utilizzare l'accumulato o il 50% dell'accumulato in previdenza complementare a fronte di periodi di cassa integrazione superiori ai 12 mesi, e quindi la previdenza complementare può rappresentare, non in termini previdenziali ma in termini di sostegno a reddito, anche un'opportunità. Chi ha la propria posizione in un fondo pensione può chiedere il riscatto del 50% se coinvolto in meccanismi di cassa integrazione. Allora le faccio sentire la domanda di Giorgio da Roma e cerchiamo di capire se quest'ultima indicazione che lei ci ha dato può essere utile anche per il nostro ascoltatore. Giorgio, benvenuto. Salve, buongiorno. Buongiorno. Senta, buongiorno anche ai vostri ospiti. Volevo fare questa domanda. Io nel 2008 sono stato in cassa integrazione, poi ho terminato il rapporto di lavoro e sono passato con un altro datore di lavoro. Volevo sapere, nel CULD risulta il TFR versato in azienda e il TFR versato in un fondo di categoria. Sì. Volevo sapere, ma il TFR versato nel fondo di categoria sarà riscuotibile oppure rimane lì? In virtù del fatto che lei comunque ha cessato il rapporto di lavoro con l'azienda precedente, quindi questa azienda le consegnerà la quota parte e lei dice insomma l'altra parte è versata al fondo di categoria. Teoricamente, lei mantiene la stessa categoria professionale, Giorgio, intanto? Sì, qual sì, è il fondo pensione? Guardi, io sono lavoro come guardia giurata, quindi non mi sono informato molto, mi devo ancora... guardi, anche lei, io la ringrazio per la fiducia che ripone in noi. Adesso in questo momento sul fondo pensione delle guardie giurate ci dia un pochino di tempo, perché adesso abbiamo le anticipazioni del GR extra large, quindi magari ci documentiamo al volo anche a prescindere dal fondo pensione della sua categoria, ma anche su come funziona effettivamente per chi abbandona per un motivo o per un altro il lavoro e si sposta su un altro. Giorgio, tra l'altro, è ancora in linea? Sì, Giorgio, sì, lei cambia lavoro adesso completamente, mi scusi, o rimane nel settore? No, rimango sempre nel settore della vigilanza. Perfetto. fondi pensione a Salvadanaio, come sono andati nella prima parte di quest'anno? Una generale situazione di tenuta rispetto ad una crisi finanziaria che morde ancora dopo un 2008, da dimenticare anche per i rendimenti appunto dei fondi previdenza complementare nel nostro paese. E allora Giorgio da Roma ci ha posto una questione molto interessante: una guardia giurata, cassa integrata nel 2008, adesso sta cambiando azienda. Da quello che ho capito, dalla precedente azienda ha ricevuto ovviamente il TFR che gli spettava, ma una parte di questo TFR è stato versato in un fondo di categoria. Cosa succede a questa quota? Chiedeva Giorgio da Roma. Intanto abbiamo ricostruito la situazione degli istituti di vigilanza. Ci sono due fondi di riferimento per i lavoratori di questo settore. Uno è Fonte, uno è Marco Polo, a seconda che i lavoratori degli istituti di vigilanza aderiscano o a Assi Vigilanza o a ANBIP. Quindi, cioè, già partiamo da un ginepraio che non di poco. Sì, diciamo che i due fondi hanno come bacino di riferimento gli stessi ambiti economici. Le organizzazioni che hanno istituito i diversi fondi appartengono ad aree differenti, per cui anche per il commercio, per il turismo, in genere chi gravita intorno a Confesercenti è più orientato verso il fondo Marco Polo, mentre Fonte raggruppa più chi le associazioni imprenditoriali legate a Confcommercio. Complessivamente. Il dato però su cui si interrogava il nostro ascoltatore, infatti, era sulla sua posizione. Lui ha cambiato datore di lavoro. In quell'occasione poteva dire al fondo pensione: io non ho più i requisiti per essere iscritto al fondo pensione, ridatemi tutto indietro. Se avesse cambiato adesso completamente settore. Oppure poteva dire: portate tutta la mia posizione a quel fondo pensione di quest'altro settore. Avendo mantenuto lo stesso settore, il suo rapporto col fondo pensione sostanzialmente non cambia. Cambia potrebbe però anche essere che però passa da un'azienda che aderiva a Fonte e va ad un'azienda che aderisce a Marco Polo. Bisogna interessarsi un pochettino con la propria azienda, in particolare con l'ufficio del personale della propria azienda, per guidare un pochettino i contributi. Certo, diciamo che la previdenza è così, non è come la previdenza obbligatoria dove c'è la mamma Stato che si fa tutto, che si occupa di noi, poi magari sbaglia, per cui facciamo più fatica a capire. Però a questo siamo bisogna stati abituati, quindi bisogna essere un po' più proattivi, bisogna controllare, fare una volta ogni qualche anno, tener d'occhio quello che ne è della nostra posizione previdenziale. Ecco, tiene d'occhio con grande attenzione la sua posizione previdenziale Giovanni da Frosinone, che si sta chiedendo se è il caso di spostare il suo pacchetto previdenziale costruito fino a questo momento. Giovanni, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno, ci dica. Chiedo scusa per il rumore. Dove sta? Dove sta? Sto in fabbrica. Certo, giustamente. E dove vuole stare? Certo, questo preso la linea e vi ascolto ogni mattina e ho ritenuto opportuno chiamarvi. Ci dica. E volevo chiedere, siccome in questi giorni sta arrivando nelle nostre case la lettera di Cometa, perché io ci ho creduto subito nel luglio del 97 e ho aderito subito, il valore della posizione del 31/12/2007 era di 8.530 euro, oggi ho 8.176 euro. Perché un paio d'anni fa ho cambiato il mio comparto da sicurezza a cresci. Sì. E se il dottore mi può consigliare se ritornare a sicurezza o avere fiducia. Allora, Giovanni, io credo che la fiducia non vada mai persa intanto, perché comunque si tende nel periodo a proteggere sempre di più quanto si accantona. Però questa credo che proprio sia la domanda per Maurizio Agazzi. Sì, un retropassaggio rispetto all'ascoltatore di prima, nel senso che per quanto riguarda l'interruzione dei rapporti di lavoro, indipendentemente dal cambio di settore, è consentito, almeno per quanto ci riguarda, il riscatto, poi che non sia da attuare perché la previdenza è appunto previdenza è un altro discorso. Quindi, però, per esempio, ogni se volta Giorgio c'è un'interruzione dei rapporti di lavoro, anche rimanendo nel settore metalmeccanico, il lavoratore ha diritto a riscatto, al trasferimento o ad altre cose. Quindi sì, infatti questo passaggio probabilmente avrà diritto anche nel caso. Infatti. Per quanto riguarda l'ascoltatore e l'aderente di Cometa, allora bisognerebbe interrogarsi, non voglio prendere la larga, sul perché da sicurezza è andato a crescita e sul perché da crescita vorrebbe andare a sicurezza, nel senso che pur purtroppo spesso noi scegliamo il comparto sulla base del rendimento e non sulla base del nostro bisogno previdenziale. Allora, sicuramente o molto probabilmente l'ascoltatore avrà cambiato la sicurezza a crescita, perché sicurezza in quel periodo, 2 anni fa, essendo un comparto garantito che aveva un obiettivo di rendere 2,5%, arrancava rispetto a quanto la borsa era in grado di fare in un comparto come crescita che aveva chiuso 2006, se non ricordo male, intorno all'8% di rendimento. Motivazione probabilmente giusta o comunque sbagliata allora il passaggio da sicurezza a crescita, potrebbe essere altrettanto giusta o sbagliato il ritorno da crescita a sicurezza. Sbagliato se legato appunto al rendimento, giusto se legato all'obiettivo previdenziale, nel senso che noi abbiamo sempre consigliato di valutare il comparto nel quale investire i propri risparmi sulla base dell'età, sulla base del reddito, sulla base del bisogno previdenziale. Quindi diciamo che l'ascoltatore, intanto il primo suggerimento è quello di non inseguire il rendimento di brevissimo periodo. È chiaro che in un investimento azionario ci può stare un periodo anche lungo di risultato negativo. Il problema è capire se questo risultato negativo va a inficiare quelli che sono i suoi obiettivi previdenziali, se questo risultato negativo è un risultato contingente, o se invece il comparto che il lavoratore ha scelto è un comparto che non è in grado di far fronte ai propri bisogni previdenziali. Tra l'altro, sono solo queste le motivazioni che possono portare a un cambio di comparto. C'è un'altra cosa che volevo aggiungere, ragazzi, peraltro adesso io non ho capito se è già il secondo switch che l'ascoltatore fa rispetto alla gestione del suo fondo, o se questo è solo il primo, perché la sua prima scelta, quando ha aderito alla forma di previdenza complementare, ha scelto subito il comparto sicurezza. Detto questo, però, ricordiamo anche quanto costa spostarsi da una linea ad un'altra nell'ambito dello stesso fondo all'aderente, al lavoratore? L'aderente si è trovato nel monocomparto, è stato messo di default nel comparto reddito, potendo però scegliere nel 2005 quale comparto. Ovviamente nel 2005 ha privilegiato il bisogno di garanzia e di sicurezza, come aveva attivato il comparto garantito prima che fosse obbligatorio per legge, e quindi ha scelto il comparto sicurezza. Evidentemente, se è in crescita, ha ricambiato nel corso del 2006 o 2007 il comparto, e oggi si troverebbe sostanzialmente ad un terzo switch. E quindi è più da speculazione, sì, tra infatti, che da previdenza. Ecco, ma a parte, diciamo, l'ascoltatore in questione che ne ha fatti 2 o 3, ma mediamente quanto costa un passaggio da una linea ad un'altra? Comunque non è un passaggio che si può fare così. 10 euro, ecco. Si può fare una volta all'anno, il primo è gratuito naturalmente, perché il lavoratore deve poter scegliere in quale comparto posizionarsi, gli altri proprio anche per scoraggiare simbolicamente lo switch facile, c'è una piccola quota, una sorta di commissione, certo, di 10 euro. Allora, c'era Marco che voleva aggiungere una cosa. Ma su questo, giusto, sì, giusto, oltre che sottoscrivere quanto diceva Agazzi poco fa, indicare che sabato prossimo, dopodomani, su Plus 24 offriremo ai nostri lettori una mini guida per interpretare i dati che stanno pervenendo con le comunicazioni periodiche dei fondi pensione agli aderenti, per inquadrare per esempio un ribasso di questa natura, se considerarlo preoccupante o no, se mancano pochi mesi alla pensione, pochi anni, quindi, 2 o 3 anni alla pensione, un calo del... Quindi ci arriva una comunicazione che non sarà banalmente solo una grigliata di numeri, ma ci sarà in questa circostanza particolare qualcosa in più, non ho capito. No, ci sarà una grigliata di numeri, certo, diciamo ma così. Oltre a questo. Si tratta di interpretarli in maniera attenta, perché il meno 6% che perde chi... che ha perso nel 2008, per esempio un lavoratore che ha 60 anni ha un valore molto più preoccupante rispetto al meno 6% che ha perso un trentenne, perché il trentenne ha almeno altri 20-30 anni di lavoro, 30 sicuri, ecco, diversamente, per cui il meno 20% del trentenne è meno preoccupante del meno 5% di un sessantenne. E dunque abbiamo provato a indicare alcuni elementi da considerare per leggere, per interpretare le griglie che i numeri che arrivano agli aderenti ai fondi pensione, per provare a creare una gerarchia anche di priorità, di considerazioni. in attesa che l'anno prossimo arrivi obbligatoria per tutti i fondi pensione la bussola previdenziale, ossia il progetto esemplificativo che è invece chiamato a offrire una stima concreta di quello che daranno i fondi pensioni al momento di andare in pensione, ossia la rendita complementare alla pensione di primo pilastro. Questa è la famosa busta arancio? Andrà insieme alla busta arancio, quella indicata ieri da Sacconi sarà quella di primo pilastro e ovviamente quella di secondo pilastro, quella dei fondi pensione, andrà di pari passo, andrà insieme, anche se evidentemente qui ci sarà da discutere sulla primogenitura. Ah sì, vabbè, adesso noi magari questo è un discorso che non interessa, magari infatti ce lo facciamo ai microfoni spenti. No, peraltro la questione della busta arancio io volevo affrontarlo, lo dico già ai nostri ascoltatori, domani mattina soldi e dintorni, per poi tornarci prossimamente quando strada facendo il progetto troverà maggior concretezza. Eccoci di nuovo in diretta. Allora, Andrea da Udine che sta aspettando da un po', ma era il tema che avevo subito sollevato dall'inizio quando così facevamo riferimento a chi non ha ancora fatto una scelta perché non ha ritenuto opportuno farla fino a questo momento, si accingerebbe a fare una scelta di previdenza complementare e invece trova qualche difficoltà, almeno dal punto di vista informativo. Andrea? Sì, infatti, premesso che credo nella previdenza complementare nel sistema pensionistico anglofono, io devo sottoscrivere per mia moglie un fondo pensione aperto per portarlo in deduzione delle tasse, quindi 5.000 euro e rotti. Ho girato e ho contattato personalmente via mail, telefonicamente, circa una ventina di istituzioni finanziarie tra banche e assicurazioni. Bel sondaggio personale. Il 60% è stata una disinformazione totale. Onestamente non trovavano le note informative, non trovavano, avevano solo i classici dépliant. Allora qualcuno prima dei suoi ospiti parlava di impulso. Io spero che sia un impulso per la previdenza complementare un attimino più concreto, non trasparente come è stata Patti Chiari, perché onestamente io sono addentrato nel sistema, avevo solo bisogno di note informative per poter confrontare. Poi ho risolto, grazie alla solerzia e all'efficienza di un consulente della banca, di una piccola banca di un paese. E ho scelto che cosa? L'unico fondo che era a mia disposizione, che riuscivo a sottoscrivere entro il 31 dicembre e che era tra l'altro il più caro, però che aveva anche i rendimenti migliori dal punto di vista però, azionario. Però certo, come dire, io credo nel mercato e quindi manterrò il profilo azionario per i prossimi 2-3 anni, poi in base ai cicli e alle mie analisi switcherò su qualche linea più sicura in attesa. Si muoverà in relazione a quello che succederà sul mercato, però magari, ecco, forse lei dice ho fatto la scelta più costosa in quel momento perché era stata l'unica che è stata accompagnata da una consulenza in grado di poter essere definita tale. Detto questo, però anche quella ha il suo peso, forse magari a fronte di una remunerazione più alta che questo fondo richiede, Marco, vale la pena pagarlo se comunque la consulenza che abbiamo avuto il nodo, la consulenza, di questo nome. La consulenza è un po' il nodo irrisolto della previdenza complementare. Chi mi dà il consiglio giusto? Le norme definite negli ultimi mesi dalla COVIP che regolano il comportamento degli intermediari bancari, assicurativi e operativi all'interno dei fondi negoziali sono molto complesse e sono più, definisco più i limiti che le opportunità e le cose da fare. Quello che manca, poi c'è stato parallelamente una serie di accordi con per esempio i patronati, di cui tra l'altro ha parlato Sacconi proprio ieri al Question Time, per fornire una consulenza previdenziale. Non esiste, come dire, una consulenza perfetta, ci sono tanti tentativi. Quello che mi chiedo è che comunque, ecco, il canale scelto dal nostro ascoltatore era il canale online, una mail, è comunque anche corretto. È una storia assurda, nel senso quello che è vero, online si dovrebbe trovare tutto. Quantomeno una nota formativa un po' più esaustiva rispetto ad un dépliant, però è anche vero che per una problematica di questo tipo, forse un contatto fisico con un consulente che sappia meglio seguirti a dirti guarda che ho bisogno di te di maggiori informazioni, è inutile che ti mando una nota informativa, non lo so, può essere utile. Un ultimo elemento, il nostro ascoltatore voleva dedurre perché scadeva l'anno, fare le cose in fretta può essere un altro errore, può certo essere quantomeno lasciare il destro a possibili insomma, scelte non del tutto efficienti. Vero è che comunque una persona, se preparata, può fornire anche se esatto, e ci sembrava questo il caso. Anche se conflitto di interessi, magari, può dare una, una consulenza utile, poi è una persona che si può ritrovare a quello sportello bancario, almeno ci si augura, in caso... Però insomma bisogna fare qualcosa di più, almeno dal punto di vista dell'informazione, quindi banche, finanziarie, tutti i soggetti preposti a vendere questi... La nostra pensione del futuro dovrebbero essere in grado di mettere in campo anche delle forze più preparate e più documentate a garantirci tutta l'assistenza necessaria. Su questo tema 800 24 00 24, il numero verde a cui potete ancora continuare a prenotare i vostri interventi. Un'altra bella storia quella che ci racconta Paolo da Mantova, vero? Buongiorno. Buongiorno Paolo, lei ha un'azienda. Sì, è una bella storia perché normalmente nella vita di un'azienda i dipendenti chiedono abbastanza frequentemente degli acconti sul TFR per motivi vari, familiari. Certo, comprare casa, motivi di salute, purtroppo, esatto, a volte sì. Perfetto. E abbiamo avuto occasione ultimamente, negli ultimi mesi, a un dipendente che aveva versato a un fondo di chiedere se c'era la possibilità di riavere i soldi per queste motivazioni. Mm-hmm. È parso impossibile riavere anche parte di questi soldi. In che settore opera la sua azienda, Paolo? Questo per arrivare ovviamente a capire anche, sì, di che fondo stiamo parlando, il tessile. E quindi insomma è riuscito poi ad accontentare il suo dipendente o no? No assolutamente, perché pare che solo o dopo, mi pare, un anno di cassa integrazione, oppure in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ma se si cambia settore si può riavere indietro i soldi del fondo, altrimenti non esiste causa valida per poter riavere anche in caso di emergenza qualcosa. Un riscatto anticipato appunto delle TFR, esatto, versato sul fondo pensione. Questa mi sembra una cosa abbastanza limitante per poi porre... Per chi ha aderito da almeno 8 anni a un fondo pensione, sì, infatti, è possibile riscattare in caso di spese mediche, spese per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa, ampie percentuali di quanto versato. Quanti versamenti aveva fatto il suo lavoratore, Paolo? No, adesso è appena andato a regime, quindi non possono essere sicuramente 8 anni, questo è normale, ma comunque... Le ripeto, nella vita dell'azienda noi abbiamo una vita di 35 anni, vediamo tutti gli anni qualcuno che chiede anche solo dopo un anno o due, e questo secondo me è una limitazione. Quindi lei ha trovato un altro limite. E tra l'altro, di cui avevamo molto spesso parlato, aggiungendoci a questo limite quello anche della non possibilità di fare una scelta reversibile. Maurizio Agazzi, che cosa pensa del caso del nostro ascoltatore? Sì. Vorrei fare un po' di chiarezza, nel senso che a volte si confonde anche il bisogno con l'opportunità, nel senso che un lavoratore che aveva aderito da un anno difficilmente risolveva il suo problema richiedendo l'anticipazione. Allora, è chiaro che la legge sulla previdenza complementare, che è una legge dello Stato, tra l'altro bipartisan, perché approvata da un governo e attuata da un altro, quindi condivisa dalla totalità del Paese, prevede alcuni benefici e alcune regole all'interno del quale muoversi. Allora, ricordava Marco Lo Conte, le anticipazioni per le spese mediche derivanti da gravissime situazioni sanitarie non c'è nemmeno l'obbligo degli 8 anni. Esiste un'anticipazione immotivata con 8 anni di anzianità pari al 30% di quanto accantonato che il lavoratore può richiedere senza appunto dare alcuna motivazione. Esiste una possibilità di riscattare in cassa integrazione il 50% della, purché la cassa integrazione abbia una durata superiore ai 12 mesi, ma non dopo i 12 mesi, da subito fino al 50% della propria posizione. Esistono le anticipazioni per spese di acquisto casa o ristrutturazione della casa. Peraltro su questo tema vorrei dire che stiamo intervenendo come Assofondi Pensioni per ottenere all'interno del decreto relativo alle popolazioni colpite dal terremoto una deroga rispetto agli 8 anni di anzianità, in modo particolare per la ristrutturazione della casa, per l'acquisto della casa e per spese immotivate, in modo da far fronte, pur essendo questa previdenza, per quei casi di serie difficoltà anche attraverso la previdenza complementare avere un'anticipazione. Io credo che sia effettivamente un problema di informazione, perché come ricordava l'ascoltatore precedente, considero gravissimo che un cittadino non possa, aprendo il sito internet di una forma previdenziale, trovare la nota informativa con tutte queste informazioni che consentono di operare scelte al meglio, nel senso la nota informativa è il documento basilare, si può discutere se sia effettivamente chiaro, comprensibile o meno, è lo strumento basilare che ogni fondo deve mettere a disposizione del potenziale aderente attraverso il sito, attraverso la distribuzione fisica. E invece insomma l'ascoltatore non riesce a raggiungere il sito COVIP, è presente per tutte le forme previdenziali complementari l'indicatore sintetico dei costi. Io invito i cittadini, quando devono fare una scelta, a valutare anche i costi, perché i rendimenti appartengono al passato, i costi sono la prima forma di rendimento all'interno di una previdenza complementare. Allora, la Covid, ogni fondo deve pubblicare il proprio ISC, indicatore sintetico dei costi. La Covid pubblica per tutte le forme previdenziali complementari, negoziali, aperti e PIP, tutti gli indicatori sintetici dei costi. Io invito soprattutto chi ha dimestichezza con... Esatto, prima di fare una richiesta capillare tra 20 soggetti, prima magari vada a vedere mediamente quanto costa una forma che potrebbe essere quella destinataria della propria scelta, quindi andare a vedere chi ha, come dire, una griglia esaustiva delle scelte possibili e poi andare, come dire, a fare magari un'indagine un po' più accurata fra i soggetti che questi prodotti poi li vendono. Io non riesco ad andare oltre, e c'era una domanda anche bella di Sergio da Perugia che voleva chiedere, visto che è un fondo chiuso, aderito ad un fondo chiuso, perché non è possibile sapere preventivamente la cifra della pensione che arriverà a prendere, e perché le ragioni sono tante. Marco, 10 secondi. L'anno prossimo si saprà. L'anno prossimo si saprà con la busta arancio. Noi ne parliamo domattina a Soldi e Dintorni, ma ci ritorniamo, vi prometto, anche a Salva Danaio. Abbiamo terminato, grazie a Marco Loconte e a Maurizio Agazzi, a Gaia Romani per la collaborazione in redazione, Fabio Cantadori oggi in assistenza tecnica. A domani, buona giornata. Salva Danaio.